Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 447. Don't shake, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try. Gli argomenti che abbiamo scelto di proporvi questa settimana sono quelli maggiormente dibattuti all'interno della galassia animalista, antispecista e vegan degli ultimi giorni. E sono principalmente due: la critica alla macellazione rituale, che accomuna, anche se in modo non uniforme, tutto il mondo animalista, e la discussione sui cani che vengono utilizzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio di vite umane. Discussione che si è accesa dopo il crollo del ponte di Genova. Ma parleremo anche di pali, perché il 2 settembre si terrà il Palio di Asti e ci sarà spazio poi per tanta buona musica, per raccontarvi un libro per bambini che amano gli animali e per una ricetta che sarà naturalmente 100% cruelty free. Speriamo di avervi incuriositi. Quintana di Foligno, Palio di Siena, Giostra dell'Orso, Palio di Legnano, Sartiglia di Oristano. Sono tante le corse dei cavalli che si svolgono all'interno delle città, con la giustificazione della commemorazione storica, i cosiddetti pali, che trovano puntualmente un drappello di animalisti che protestano sempre schierati dalla parte dei cavalli. Il motivo è semplice e complesso nello stesso tempo: chi apprezza i cavalli quasi sempre esprime la sua passione attraverso l'equitazione. Ma usare i cavalli come fossero motorini, cosa che sembra la più normale al mondo, può anche essere vista come qualcosa di non tanto normale. I cavalli infatti sono animali schivi, timidi, in natura sono prede, per difendersi dai predatori utilizzano strategie di gruppo, quindi vivono in branchi, hanno rapporti familiari e sociali molto forti, detestano il rumore. La vita dei cavalli da corsa quindi è del tutto inadatta alla loro natura. I cavalli usati nell'ippica perdono del tutto la dimensione del gruppo, vengono poi fatti viaggiare anche in aereo, in autostrada, situazioni molto stressanti per loro durante questi lunghi viaggi. I cavalli anche per ore si rifiutano di mangiare o di bere perché sono in tensione, devono soprattutto concentrare le forze per restare in piedi. Inoltre i cavalli vivono con terrore le situazioni caotiche, le urla, la gente che si sbraccia, e le loro zampe sono molto fragili e sottili. Per nessuna ragione un cavallo si arrischierebbe a saltare o a correre su terreni inadatti come sono le strade e le piazze lastricate di città, posti dove si svolgono normalmente i pali, né correrebbero mai all'impazzata in curve molto strette dove la torsione a cui vengono sottoposte le loro caviglie rischia di provocare incidenti irreversibili. Anche il Palio di Asti, come ogni altro palio, anno dopo anno viene monitorato dalle associazioni animaliste. Secondo l'osservatorio di Paola Re, che è un'attivista specializzata in questo genere di eventi, dal 1977 a oggi sono morti 15 cavalli coinvolti nel Palio di Asti. Cristina Dente, corrispondente dal Piemonte, ha intervistato per Restiamo Animali Elisa Ghidella, responsabile della sezione astigiana della LAV, Lega Antivivisezione, chiedendole come affronteranno il Palio di Asti del 2018. Sentiamo il servizio. Noi siamo una sede abbastanza giovane, nata da pochi anni, ci occupiamo di diverse emergenze sul territorio, ma ovviamente essendo in una città di Paglio anche di quello che è il contrasto al Paglio. Quest'anno abbiamo deciso di fare delle attività un pochino diverse per sensibilizzare le persone, quindi non faremo il presidio di protesta il giorno del Paglio, ma faremo un flash mob che verrà poi trasmesso il giorno del Paglio, quindi verrà poi montato un video e fatto girare in quella giornata. Faremo delle affissioni per la città durante il periodo del Paglio, quindi dal 27 agosto per 10 giorni. Cercheremo di affiggere diversi manifesti in vari punti della città, ci auguriamo che non ce li nascondano, per provare anche lì a fare un tipo diverso di sensibilizzazione. Abbiamo già in programma per i primi di ottobre tavolo tematico di una giornata proprio solo dedicato a questo, per riuscire ad avvicinare un pochino di più la cittadinanza. Questo perché crediamo che l'unica cosa che può cambiare un attimino le cose sia riuscire a sensibilizzare le persone. Asti ha un Palio storico, è un Palio molto vecchio, più vecchio di quello di Siena, quindi è molto radicato nella tradizione, ma siamo convinti che ci potrebbe essere una strada alternativa, che si potrebbe comunque avere un giorno di festa, si potrebbe comunque continuare a portare avanti le nostre tradizioni, quindi con la sfilata degli sbandieratori, con la sfilata dei figuranti, ma trovare un'alternativa che non coinvolga animali. Noi in questo crediamo. Abbiamo una posizione netta che per noi è l'abolizione, quindi non chiediamo una pista migliore, una pista più grande, una pista più sicura, vogliamo che il Palio non si corra. E quindi sappiamo che ci sarà un lavoro lungo da fare, proprio perché quando le cose sono molto radicate è difficile riuscire a cambiare il pensiero delle persone, ma ci crediamo e quindi proviamo questa strada. Suggeriamo a chi ci ascolta di mettere un like alla pagina Facebook Restiamo Animali. Se poi l'argomento palio vi interessa e volete approfondirlo, troverete un post che è datato 16 agosto, si riferisce al Palio di Siena, che contiene molti commenti e anche approfondimenti e che ha avuto molte condivisioni. Abbiamo annunciato in apertura di puntata, nella galassia animalista e antispecista è in corso un dibattito molto acceso attorno al tema dei cani, cani che vengono utilizzati dopo le catastrofi e che possono essere quindi terremoti, crolli, esplosioni, altre operazioni di ricerca e soccorso. In rete è stato analizzato un filmato trovato su YouTube che si riferisce al terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016. Il video è intitolato «L'incredibile lavoro dei cani tra le macerie». Questo video evidenzia il lavoro di un cane e del suo conduttore che lo comanda in una montagna di macerie ancora pericolanti che probabilmente prima erano una casa. Il cane viene comandato con frasi del tipo «Vai!» cerca e lui obbedisce infrattandosi tra le macerie ancora pericolanti e instabili. Non c'è nessuna garanzia che il cane non rimanga sotto le macerie. In un passaggio del video c'è un pezzo di struttura a penzoloni che potrebbe crollare da un momento all'altro, ma il cane si trova subito sotto e non lo sa. Il conduttore del cane invece lo vede e lo sa, ma il cane si fida del suo conduttore, non può pensare che il suo compagno umano lo stia esponendo a un rischio così alto. In un punto del video si vede chiaramente che il cane vorrebbe cominciare a scendere dal mucchio di macerie, ma riceve l'ordine perentorio: no, vai, cerca. Come viene fatto giustamente notare da chi ha commentato in rete questo video, il cane, nell'infinita fiducia che lo lega al suo compagno, mette inconsapevolmente in gioco la propria vita. Qualcuno ha fatto anche notare la differenza semantica che passa tra collaborazione e sfruttamento. La collaborazione presuppone una partecipazione attiva, un consenso informato. Tutte le parti coinvolte che collaborano devono essere consapevoli dei pro e dei contro, del contributo che danno. Lo sfruttamento, invece, presuppone il vantaggio di una parte sola, a discapito dell'altra. Non vengono usate le capacità altrui per ottenere dei risultati di cui lo sfruttato godrà, se non in piccola misura, misura comunque che viene decisa da chi sfrutta. C'è anche chi fa notare che i cani impegnati in operazioni di soccorso non hanno nessuna protezione, non hanno una mascherina, stivaletti, un giubbottino imbottito, nulla. Usiamo quindi i loro nasi e i loro corpi, scrivono su Facebook, senza neanche avere l'accortezza di proteggerli, per quanto sicuramente esistano droni e altri marchingegni capaci di rilevare ciò che possono rilevare i cani. Interessante dal punto di vista storico sapere che dopo l'11 settembre 2001, le Twin Tower, molti cani soccorritori morirono a causa dei tumori alle vie respiratorie. I loro nasi eccellenti li condannarono a morte. Zucconi scrive su Repubblica nel 2002 la seguente frase: non hanno chiesto aumenti di stipendio e neppure medaglie, anche se qualcuna sul muso gli è arrivata comunque, ma non avevano chiesto neppure di morire. I cani dell'11 settembre che a centinaia accompagnarono gli uomini tra le rovine delle Torri Gemelle, eppure questo è il premio che stanno ricevendo. Stanno morendo di brutte malattie fatali provocate dai fumi tossici che dal braciere di Ground Zero emanavano amianto, piombo, mercurio, cloro e che i pastori tedeschi, i Rottweiler, i Labrador, i Doberman, i Golden Retriever e tutti i loro cugini di indifferente ma entusiastico pedigree aspiravano per ore ingordamente perché erano cani. E dunque hanno sviluppato prima degli uomini, nel metabolismo accelerato della loro più breve vita, quei mali che oggi, dopo appena un anno, li stanno uccidendo e che domani potrebbero uccidere gli agenti e i pompieri che li accompagnavano. C'è chi insinua anche che dietro lo sfruttamento del fiuto di un cane ci sia un bel giro di soldi tra allevamenti, campi di addestramento e cinofili addestratori. Allora le domande, le riflessioni che noi poniamo a chi ascolta sono più o meno le seguenti. È giusto utilizzare questi cani che non sanno di andare incontro a incidenti potenzialmente mortali ma si fidano ciecamente dell'uomo? E siete d'accordo con l'utilizzo dei cani in attività di cui beneficia la società umana e che potrebbero essere svolti dagli umani stessi, consapevoli dei rischi che corrono, oppure dalla tecnologia avanzata? Lasciamo naturalmente a voi lo sviluppo del dibattito. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild eyed, crazy Mary. Down a long dirt road, past the parson's place, the old blue car we used to race, a little country store with a sign tacked to the side, said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A loud. Underneath that sign always congregated quite a crowd. Take a bottle, drink it down, pass it around. Drink it down. Take a bottle, drink it down, drink, pass it around. Pass it down. Take a bottle, drink it down, pass it, pass it, pass it around. One night, thunder cracked, mercy backed outside her windowsill. Dreamed I was flying high above the trees, over the hills. Looked down into the house of Mary. Marable plum, newspaper covered walls, and Mary ran. Si chiama stordimento preventivo ed è considerata una conquista della civiltà. Consiste nel rendere incosciente l'animale destinato alla macellazione. I metodi utilizzati per ottenerlo sono la pistola a proiettile cattivo, la commozione cerebrale, l'elettronarcosi, l'esposizione al biossido di carbonio. Ma attenzione, deroghe a questa limitazione della sofferenza sono consentite. Prima di tutto, per il consumo familiare di volatili e conigli macellati in casa. E questo viene fatto regolarmente nel nostro paese da ogni tipo di famiglia, essendo un retaggio della cosiddetta civiltà contadina. Inoltre è consentita la deroga in alcuni macelli autorizzati per volatili, conigli, ma anche suini, ovini e caprini, e tra questi rientrano quelli preposti alla pratica della macellazione rituale, islamica o ebraica. Che cos'è la macellazione rituale? Sia la legge islamica che i precetti ebraici prescrivono una serie di regole da seguire per rendere la carne commestibile ai fedeli di queste religioni. Le caratteristiche del procedimento di uccisione dell'animale sono riassunte nel termine halal per i musulmani e kosher per gli ebrei. Questi metodi non prevedono lo stordimento preventivo dell'animale prima della sua uccisione. L'animale deve essere cosciente al momento della recisione di trachea ed esofago. Quest'anno la festa islamica del sacrificio di Abramo si è svolta dal 21 al 25 agosto. La festività commemora il noto episodio, anche biblico, del sacrificio del figlio di Abramo, a cui Allah avrebbe sostituito all'ultimo momento un capo di bestiame. Per questo il rito principale della festa consiste nel sacrificio di un animale, solitamente una pecora, ma anche capre, bovini o cammelli. Alcuni politici italiani nei giorni scorsi si sono espressi contro la macellazione rituale per via della sua crudeltà. Oltre a criticare la mancanza dello stordimento, le persone realmente interessate al benessere degli animali dovrebbero criticare però anche il taglio delle code, l'estrazione dei denti, la castrazione, il taglio del becco e altre pratiche crudeli, comuni e diffuse negli allevamenti. La morte per dissanguamento senza stordimento non è certamente accettabile e le deroghe per ragioni religiose sono decisamente anacronistiche. Ci chiediamo se è possibile che le autorità religiose non sentano il bisogno di superare queste inutili crudeltà. Ma quando tale critica proviene da mangiatori di carne incalliti, suona come qualcosa di ipocrita e in qualche caso tradisce anche venature antisemite e islamofobe. La questione è aperta e sui social network fioccano i commenti, le invettive e le considerazioni. Ad esempio, Jenny scrive: per difendere il diritto alla vita degli animali, che tutt'oggi dalle nostre leggi non sono considerati soggetti di una vita ma oggetti, la lotta deve essere radicale. Bisogna mirare all'abolizione delle uccisioni, non a migliorare le uccisioni stesse. E per arrivare a questo abbiamo bisogno di tutti, anche dei musulmani, perché sono il 23% della popolazione mondiale. Barbara invece scrive: la festa del sacrificio è praticamente come la Pasqua. Anche la Pasqua è una strage di agnelli. Gli animalisti e i vegani dovrebbero lottare a fianco di ebrei e musulmani vegani, che pure esistono. E noi abbiamo fatto una piccola ricerca ed effettivamente abbiamo trovato alcuni interessanti siti internet. Per esempio esiste il sito veganmuslims.com oppure la pagina Facebook Vegan Muslim Community. Non abbiamo però trovato un movimento di cattolici vegani né uno di ebrei vegani in Italia, mentre invece ne esistono in altre parti del mondo. Should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. La rubrica dedicata ai libri per bambini che amano gli animali. In questa puntata Agatha e la sua mamma Roberta ci proporranno una nuova versione della fiaba del francese Charles Perrault che risale, pensate, al 1697. Speriamo che sia vegan. Letture per bambini che amano gli animali. Cappuccetto Rosso arrivò, guardò quella che credeva fosse la nonna e disse: «Che occhi grandi che hai!» E il lupo rispose: «Per guardarti meglio!» «E che orecchie grandi che hai!» «È per sentirti meglio!» «E che bocca grande che hai!» «È per mangiarti meglio!» E basta con questa storia del lupo cattivo che mangia tutti e del cacciatore buono e coraggioso che li salva. Questa è un'altra storia. Parla di amicizia, della diversità che è solo un punto di vista e di due strade che si incontrano al centro, proprio a metà, per diventare una sola. Sono le strade percorse dalla bimba Cappuccetto e dal giovane lupetto Cappuccino che come in uno specchio guarderanno in faccia le loro paure per sconfiggerle insieme, semplicemente prendendosi per mano, per iniziare un'altra storia. Quella che nessuno ha mai raccontato. Ha mille gene nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Per sognare. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella. Un giorno la mamma disse a Cappuccino: «Vai da nonna Lupa e portagli un po' di questo morbido tortino. Ormai è senza denti e non riesce più a masticare. Ma stai attento, Cappuccino mio, nel bosco c'è il cacciatore. Corri veloce come il vento e non fermarti per nessuna ragione». E si perse. Un giorno la mamma disse a Cappuccetto Rosso: «Vai dalla nonna che ha un brutto raffreddore e portale questa torta di mele, ma fai attenzione bambina mia, nel bosco si aggira il lupo cattivo, se lo vedi corri come il vento e non voltarti indietro». E si perse. Mi chiamo Cappuccino. E tu? Io Cappuccetto. Sei il crudele cacciatore? Oh, no, no. Facciamo la strada insieme? Sei il lupo cattivo? Io? No! Facciamo la strada insieme? E proseguirono insieme, perché in due è più difficile perdersi. Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà. Cappuccino e Cappuccetto di Fulvia degli Innocenti, illustrazione di Sonia Saba, edizioni Terra Nuova dei Piccoli, età dai 3 ai 7 anni, 32 pagine, 13 euro. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Mi sono sempre chiesto, o come si fa a chiamare una bambina Cappuccetto Rosso? Ma soprattutto, che genitori disgraziati mandano una bambina da sola in bosco? E la dovrebbe aver paura del lupo? La faceva meglio a chiamare il telefono azzurro, altro che... Almeno cerchiamo di riempirlo il cestino con dolcetti senza crudeltà. Ecco la ricetta per i cornetti alle mele, cannella e noci. Gli ingredienti per 8 cornetti sono, per la pasta, 80 ml di yogurt di soia bianco, 70 g di zucchero di canna, 80 g di burro di soia o margarina autoprodotta, 60 ml di olio di semi di girasole, 10 g di farina di ceci, 5 g di crema al tartaro, 300 g di farina, zucchero a velo per guarnire. Per la farcia, una mela, 20 g di zucchero di canna, un pizzico di cannella in polvere, 15 g di noci sgusciate e tritate. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight soul? What I do ain't make believe, people say I sit and... Iniziate preparando la pasta. Mescolate tutti gli ingredienti, escluso la farina, che aggiungerete lavorando con un cucchiaio di legno. Quando tutta la farina sarà incorporata, impastate con le mani per 5 minuti. Quindi avvolgete con la pellicola e fate riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Nel frattempo sbucciate e tritate la mela. Mettetela in un tegame assieme allo zucchero di canna e fate cuocere per 10 minuti a fuoco medio-basso. Quando avrà preso un bel color caramello, togliete dal fuoco e unite la cannella e le noci tritate. Adesso riprendete la pasta e stendetela formando un disco alto 3 mm. Tagliate 4 volte per il diametro formando 8 triangoli. Adagiate nel lato corto di ogni triangolo un po' di impasto di mele, noci e cannella. Arrotolate formando un cornetto. Disponete i cornetti su una placca con carta forno e fate cuocere a forno statico per 30 minuti a 170 gradi. Quindi lasciate raffreddare. Servite con una bella spolverata di zucchero a velo. Style and my plug one spectacle. You say plug one and two are hippies. No, we're not, that's pure plug four. Always pushing that we formed an image. There's no need to lie. When it comes to being plug one, it's just me, myself, and I. Siamo in chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 448 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.